Oggi o siamo convinti che se superiamo questo scoglio difficile, siamo come la Concordia, ci siamo sfracellati. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare. Ma cos'è una mania? La Polverini sugli scogli come la Concordia, Formigoni con lo yacht, Berlusconi in crociera, ma il PDL sta proprio andando in barca. Finché la barca va, stai a guardare.